Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Questa sera vi tocca con me, domani torna Sebastiano Barisoni. Il numero per gli sms come sempre è quello, il 349-238-6666, quello non cambia. Di cosa parleremo oggi? Innanzitutto ancora una volta della situazione della Grecia, perché questo è il tema che continua ad essere al centro del dibattito anche a Washington, dove è in corso la riunione del Fondo Monetario Internazionale. È arrivato ieri tra l'altro negli Stati Uniti il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, arriverà questa sera il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che incontrerà anche il presidente americano Obama. C'è il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde, che ancora una volta si dice preoccupata per la situazione di difficoltà. C'è il premier greco Tsipras, che in un'intervista alla Reuters dice: con l'Unione Europea ci sono alcuni punti di disaccordo, riguardano per esempio la riforma del lavoro, la riforma delle pensioni e le modifiche dell'IVA. Quindi praticamente non c'è accordo su nulla da quel che risulta al momento. Le difficoltà greche sono sempre più evidenti, i rendimenti dei titoli di Stato ormai sono intorno al 27%, ovviamente la preoccupazione cresce. Ci collegheremo con Washington per parlare di questi argomenti. Ci occuperemo ovviamente di mercati. È una giornata, quella di oggi, particolarmente negativa, un meno 1,8% sul FTSE MIB, un meno 1,8% anche sul FTSE All Share, negativa anche Parigi dello 0,62%, Francoforte dello 0,76 e Londra giù di mezzo punto percentuale, in una giornata che vede positive in questo momento solamente Jux, che guadagna il 2,87%, ed Exor lo 0,26, mentre World Duty Free è in perfetto pareggio. Nell'arco della giornata sono andati bene un po' tutti i titoli collegati a Fiat Chrysler. Oggi la prima assemblea, e questo sarà un altro argomento di approfondimento, la prima assemblea fuori dall'Italia in Olanda, è confortata almeno nella giornata di oggi dai dati che sono arrivati sul fronte delle immatricolazioni, particolarmente positive, ci riferiamo alle immatricolazioni in Europa. Torneremo sul tema delle infrastrutture italiane. Oggi è apparso su un sito internet, su una sorta di quotidiano online di area liberale, per così dire, un bel pezzo di un professore di economia, Ugo Arrigo, che confronta la spesa per infrastrutture fatta dalla Francia con la spesa per infrastrutture fatta dall'Italia negli ultimi 10 anni. La Francia, un paese che è più o meno il doppio del nostro per dimensioni, che le cui infrastrutture notoriamente funzionano piuttosto bene, a testimonianza di questo c'è il fatto che è stato uno dei primi paesi in Europa che si è dotato più capillarmente di alta velocità ferroviaria. Ebbene, noi abbiamo speso in questi 10 anni il 30% in più dei francesi, il 30% in più, per avere quello che abbiamo. Tra l'altro vi riproporremo un breve brano di un'intervista che abbiamo realizzato, oggi in effetto giorno, con l'assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna, dove è successa esattamente la stessa cosa che è successa sulla Palermo-Catania. La strada statale 554 bis, cosiddetta Cagliaritana, che porta anche ad una serie di luoghi di piacere, inteso come evidentemente spiagge, luoghi turistici, è stata ammodernata di recente, spesa 55 milioni di euro, una frana ha colpito un pilone, una frana che esisteva da tempo anche in questo caso e la cui conoscenza, insomma, poteva essere desunta anche da un geologo che andasse là a controllare. Ci sono state delle forti piogge e quando mai non avviene questo, la frana è andata giù e adesso la strada nuovamente non è percorribile, esattamente come per la Palermo-Catania. Quindi torneremo anche su questo tema delle infrastrutture. Ci occuperemo per il momento solo marginalmente, vedremo se riusciremo ad approfondire nel corso della puntata della vicenda di Whirlpool. L'avete sentito anche nei nostri giornali radio, oggi c'è stata una riunione per la presentazione del piano industriale di Whirlpool dopo l'acquisizione di Indesit. Ebbene, si parla di 1350 esuberi. Stiamo cercando di raggiungere l'amministratore delegato di Whirlpool, Davide Castiglione. Vediamo se riusciremo a raggiungerlo nel corso della trasmissione. Sappiamo che doveva prendere un volo per tornare in azienda e quindi vedremo se riusciremo a beccarlo nel corso della trasmissione. Vi faremo sentire intanto il racconto di uno dei sindacalisti presenti, oltre che le inevitabili polemiche politiche che seguiranno, perché all'indomani dell'operazione con la quale Whirlpool comprò Indesit, il presidente del Consiglio Matteo Renzi rilasciò un'intervista al Corriere della Sera nella quale gli si chiese un'opinione su questo e disse: è un'operazione fantastica, quindi è già la FIOM su questo sta polemizzando. Anche di questo parleremo, tutto questo ovviamente dopo le nostre notizie in breve. Dalle materie prime, come sempre. L'oro innanzitutto, giù dello 0,5% a $1,195 l'oncia. Il petrolio ancora in calo dell'1,2% a $57 al barile, parliamo di quello quotato a New York e quello quotato a Londra. Il petrolio del Mare del Nord con consegna a maggio è appena sopra i $60 a 60,32. Siamo ai nuovi minimi per i rendimenti dei titoli tedeschi. Per la prima volta il tasso medio dell'intero debito tedesco è sceso sotto zero alla chiusura di ieri sera. Allo stesso tempo il tasso sul Bund decennale tocca un nuovo minimo storico, abbassandosi sotto lo 0,1% fino a quota 0,097%. Abbiamo dati positivi invece per quanto riguarda il commercio estero italiano. A febbraio le esportazioni sono cresciute del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2014. È interessante che queste esportazioni siano state trainate dall'area extraeuropea, un più 7,1%. Esportazioni che crescono anche rispetto al mese precedente, ossia rispetto a gennaio, del 2,5%. In aumento anche le importazioni dell'1% su anno e dello 0,6% su mese. Il tema del lavoro e delle assunzioni. L'osservatore del lavoro della CNA valuta che in marzo nelle piccole imprese si registrerà un più 8,6% di assunzioni sullo stesso mese del 2014. Negli ultimi 12 mesi parla di un 54,6% in più di posti di lavoro a tempo indeterminato. Da dire che le cifre sono limitate, parliamo di piccole imprese: 3.245 nuovi posti di lavoro, di cui 1.337 a tempo indeterminato. In un anno, C'è anche l'amministratore delegato di Alitalia, Cassano, che dice: stiamo valutando insieme ai sindacati l'opportunità di procedere a nuove assunzioni. La trattativa è a buon punto e speriamo di poterla concludere presto. Poi c'è l'altro fronte, invece quello un po' più preoccupante, che è quello che riguarda la vicenda Whirlpool Indesit. Iniziamo riassumendo quelle che sono le proposte dell'azienda. Oggi c'è stato il tavolo, lo ricorderete, l'anno scorso c'è stata l'acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool, il delisting, ossia l'uscita dalla borsa di Indesit. E si attendeva appunto un piano industriale che comprendesse anche il piano di investimenti, investimenti che effettivamente ci sono. E però quello che preoccupa naturalmente i sindacati e i lavoratori delle fabbriche è questo annuncio di 1350 esuberi. Quello che ha detto l'azienda in questo incontro lo riassume piuttosto efficacemente, devo dire, Gianluca Ficco, che è responsabile settore elettrodomestici della Wilm, intervenuto oggi ad effetto giorno. L'azienda ci ha prospettato un piano industriale che dal suo punto di vista deve servire a fare sinergie tra gli impianti acquistati da Indesit e quelli naturalmente preesistenti. Sinergie sia nell'ambito delle fabbriche del centro di ricerca e sviluppo. La cosa amara è che nonostante un piano di investimenti molto forte di 500 milioni in 4 anni e nonostante una previsione di aumento dei volumi complessivi, purtroppo l'azienda dichiara ben 1350 esuberi e addirittura la chiusura. La chiusura di che, dello stabilimento di Caserta, mi sembra di capire. Lo stabilimento di Caserta, che ha circa 800 persone, quindi un grande stabilimento, e poi per la verità anche la chiusura dell'unità produttiva di None, che più particolarmente si compone di un magazzino e di un centro di ricerche per tutta una novantina di persone complessive, e infine la chiusura del sito di Albacina, ma i 600 lavoratori di Albacina, secondo questo primo cenno fatto dall'azienda, dovrebbero essere trasferiti nel vicino insediamento di Melano. Quindi un piano nel complesso, possiamo dire, molto squilibrato, tra alcune fabbriche che addirittura dovrebbero vedere incrementata l'occupazione, come quella di Varese, altre relativamente tranquille come Siena, Comunanza in provincia di Ascoli, e altre invece che pagano un prezzo altissimo, soprattutto Caserta, che addirittura chiude. Reazioni a tutto questo, innanzitutto quella degli operai, di Albacina, della Indesit di Albacina, stabilimento in provincia di Ancona che citava già Ficco della Wilm, hanno bloccato la strada provinciale 256 Muccese, si stanno dirigendo verso la superstrada Ancona-Roma per protestare contro il piano. Il presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, parla di un piano inaccettabile. Il sindaco di Fabriano dice che il piano va respinto. Ma c'è anche una reazione del governo che esprime forte contrarietà al piano per gli aspetti legati agli impatti occupazionali che riguardano diversi siti produttivi, e questo è quello che viene fatto filtrare dal governo. Con riferimento in particolare a zone, dice l'esecutivo, già soggette a deindustrializzazione. Qua anche riferimento non solo a quella zona delle Marche che un tempo era il distretto del Bianco, ma anche a Caserta, dove si perderebbe una fabbrica che offre lavoro ad 800 persone. Il riferimento è evidente. La L'altra reazione è quella dell'azienda. Vedremo se riusciremo a raggiungere l'amministratore delegato nel corso della trasmissione. Il piano Whirlpool per l'integrazione delle attività acquisite da Indesit è il migliore che possiamo mettere in campo, dice lo stesso Davide Castiglioni, amministratore delegato. Abbiamo guardato tutti i piani possibili, è il migliore per garantire continuità e sostenibilità a lungo termine. E aggiunge: nessuno verrà lasciato solo. Secondo quello che riferisce Whirlpool, gli ulteriori esuberi, ulteriori si intende ulteriori rispetto al momento nel quale è stata acquisita Indesit, sono 400 e sono stati tenuti a livello più basso possibile. E in linea con lo spirito del piano che era stato presentato, col piano presentato dalla stessa Whirlpool in realtà, l'azienda è disponibile a considerare soluzioni che evitino procedure di mobilità unilaterali fino alla fine del 2018. E a proposito di problemi e di crisi aziendali, c'è chi ci scrive a proposito dell'ILVA, vedo una serie di messaggi preoccupati, probabilmente anche un lavoratore dell'ILVA che ci scrive in questo momento. Non vi preoccupate, rimane sempre, per così dire, nei nostri pensieri, nelle nostre cronache, ci torneremo quanto prima. Alle 11.55 di oggi cambiamo argomento. Sono stati oltre 257.000 gli accessi al 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Lo dice il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, via Twitter. Nel primo giorno si erano registrati oltre 100.000 accessi. A questo è dedicato l'appuntamento con i 100 secondi dell'economia, che va in onda sia su Radio 24 che su Radio Dimensione Suono. Sono a firma di Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. È prematuro azzardare bilanci sull'operazione modello 730 precompilato lanciata ieri dall'Agenzia delle Entrate. Nel giorno del debutto non ci sono stati intoppi tecnici, per cui chi era in possesso di PIN e password, i codici necessari per l'accesso, non ha incontrato difficoltà, salvo qualche problema sorto per chi aveva il PIN rilasciato dall'INPS. Eppure non si può dire che tutto sia andato liscio. Da un lato molti lavoratori dipendenti e pensionati avevano preso un po' alla lettera le parole del governo, che aveva lanciato l'idea del 730 che arriva a casa. In realtà, per avere il modello precompilato è necessario disporre del PIN, collegarsi ai siti dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS, scaricare la documentazione, quindi nulla arriva a casa, bisogna darsi da fare da soli oppure rivolgersi ai CAF. Ma anche tra chi ha scaricato il modello, insomma, i problemi non sono mancati e molti hanno riscontrato incongruenze, dati mancanti, errori, e a volte non sono indicati i redditi dei fabbricati, le detrazioni sono sbagliate e mancano le spese, come ad esempio gli interessi sui mutui. In questi casi la dichiarazione precompilata serve a poco, anzi rischia di complicare il rapporto con il fisco, costringendo molto ad andare poi dal CAF o da un professionista per correggere gli errori. Sappiamo che l'operazione 730 precompilato parte quest'anno in via sperimentale, ma quel che abbiamo visto finora ci conferma che ci vorrà tanto tempo, forse molti anni, per rodare il meccanismo e rendere questa iniziativa una vera semplificazione per i cittadini. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ed ecco Eccoci al primo argomento di questa giornata. Insomma, già qualcuno ci scrive a proposito del tema che stiamo trattando parecchio in queste settimane, non solo in Focus Economia, ma anche in Effetto Giorno, in tutti gli appuntamenti dell'informazione, ossia le infrastrutture. Ci verremo a quella questione dopo le 18, nella seconda parte della trasmissione. E però, come primo argomento di giornata, andiamo ancora una volta a Washington, dove c'è la riunione del Fondo Monetario Internazionale e dove evidentemente il tema che domina, almeno dal nostro punto di vista, dal punto di vista di europei, è ancora una volta quello della Grecia. Alessandro Merli del Sole 24 Ore, inviato a Washington, buongiorno e benvenuto. Buonasera, anzi. Buongiorno. Buongiorno per te e buonasera per noi, naturalmente. Allora, anche Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha ovviamente espresso le sue preoccupazioni, no? Dice sì, l'Eurozona si sta rafforzando, però quello della Grecia permane un rischio. C'è una preoccupazione soprattutto dal lato liquidità, no? Beh, in pratica la signora Lagarde ha ripetuto quello che aveva detto ieri Draghi alla conferenza stampa della BCE, cioè che a questo punto la palla è nelle mani dei greci, c'è questo negoziato in corso, però i greci devono presentare una lista di riforme, ma che non sia un libro dei sogni, ma una cosa che abbia dei contenuti, che sia approfondita. È proprio a una domanda che l'ho fatto pochi minuti fa in conferenza stampa, la signora Lagarde ha detto ci aspettiamo dai greci che si muovano più rapidamente e più in profondità su questo fronte, perché non si può sempre contare su degli accordi politici dell'ultimo momento raggiunti a Bruxelles. Questa non è una soluzione né per l'economia greca né per la popolazione della Grecia. E quindi anche da lei è venuto un appello al governo greco a muoversi rapidamente. Allora Alessandro, abbiamo degli evidenti problemi di collegamento e una qualità audio che non è eccellente. Facciamo così, ci prendiamo un attimo di pausa, ci fermiamo, perché tra l'altro poi il Fondo Monetario ha detto questo ieri, che l'uscita all'euro della Grecia sarebbe terribile. Voglio capire su che fronte, perché in realtà ci sono una serie di analisi internazionali che sembrano dire, una serie di valutazioni da parte degli analisti che sembrano dire che non sarebbe così drammatico come sarebbe stato se la Grecia fosse uscita all'euro qualche anno fa, quando i rischi finanziari erano più elevati, e però appunto il Fondo Monetario usa questa espressione. Ed eccoci di nuovo a parlare di Grecia. Mentre c'era la pausa, mentre sentivamo le informazioni sul meteo, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni, il cosiddetto spread, è arrivato a 130 punti base, segnando i massimi da 2 mesi, e questo anche in forza di quello che sta avvenendo e di quello che riguarda la Grecia, o meglio di quello che non sta avvenendo. Scrive un ascoltatore, dice: non crediamo che il problema della Grecia si sia già di fatto risolto negativamente. Come fanno a venirne fuori quando i titoli greci a 3 anni rendevano questa mattina il 26%? Vorrei sapere da Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore a Washington, al di là delle dichiarazioni di Lagarde e delle voci che hai raccolto in giro e che si sentono, al di là delle dichiarazioni ufficiali, qual è il clima intorno alla vicenda greca che si respira in quell'ambiente, in quel mondo, in quelle riunioni? Alessandro. Beh, intanto devo dirvi che durante la pausa non solo è salito lo spread, ma è anche salito negli uffici del Fondo Monetario il ministro greco Varoufakis, che è entrato senza rilasciare dichiarazioni. Sappiamo che fra oggi e domani avrà incontri sia con i vertici del Fondo Monetario che con l'amministrazione americana. Il clima che si respira è abbastanza negativo, tutti gli interlocutori della Grecia dicono che non stanno avendo dai greci un ritorno delle proposte che si aspettavano. Ho parlato ieri con un negoziatore di Bruxelles che mi ha confermato che di fatto questo negoziato è in stallo da almeno una o due settimane. Siccome il tempo stringe anche per la Grecia, è chiaro che a questo punto il clima non può essere molto positivo. Naturalmente, dicevi che appunto Varoufakis è salito su negli uffici del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo letto nelle scorse ore indiscrezioni del Financial Times secondo le quali la Grecia avrebbe chiesto allo stesso Fondo Monetario di dilazionare i pagamenti dovuti a maggio, ma la risposta sarebbe stata a picche. Ci confermi, Alessandro? Ma è stata un'altra di quelle proposte che nella comunità internazionale sono state giudicate un po' strane. Questo fatto non è mai avvenuto per un paese avanzato, anche perché, come ha ricordato stamattina la signora Lagarde, di fatto queste dilazioni di pagamenti significano nuovi finanziamenti e ci sono molti paesi fra i 180 e passa membri del Fondo Monetario che ovviamente stanno molto peggio della Grecia e che dovrebbero essere chiamati a degli esborsi a favore di Atene, dei quali non vedono necessità. Di fatto anche per i paesi diciamo poveri o in via di sviluppo questa dilazione dei pagamenti della Grecia dei pagamenti al Fondo Monetario è un fatto quasi senza precedenti. Ci sono due casi che risalgono a più di 30 anni fa, oppure ci sono i casi conclamati di insolvenza come sono stati lo Zimbabwe oppure l'Etiopia nell'epoca di Mengistu. Cioè, se la Grecia si mette su questa strada si mette veramente alla stregua degli intoccabili della comunità finanziaria internazionale. Grazie ad Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore a Washington, per averci dato anche un po' il clima intorno alle vicende della Grecia. Vedremo che cosa emergerà, se emergerà qualcosa dall'incontro che avete sentito. Alessandro Merli ci ha annunciato praticamente in diretta tra Varoufakis e i vertici del Fondo Monetario Internazionale. Su questi temi torneremo ovviamente nelle prossime settimane. Diciamo purtroppo, perché ancora una volta abbiamo un problema, ed è sempre lo stesso, quello della Grecia, che l'Europa continua a trascinarsi per mesi creando tensioni internazionali e sui mercati. Comunque sia, passiamo ad altro argomento e parliamo di Fiat Chrysler. Intanto vi dico che le borse hanno chiuso negative, meno 1,75% per il FTSE MIB, meno 1,74% sul FTSE All Share. Francoforte giù di quasi 2 punti percentuali, Parigi dello 0,57%, Londra dello 0,36%. L'America è negativa, anche se di poco, il Dow Jones cede lo 0,12%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,15%. Nell'arco della giornata si erano distinti in realtà i titoli proprio collegati a Fiat Chrysler, la stessa Fiat Chrysler, CNH Industrial, che però chiude in realtà con un calo dello 0,85%, Exor, che la controllante sostanzialmente, la finanziaria della famiglia Agnelli, un guadagno dello 0,28%, insieme a World Duty Free che guadagna lo 0,10%, Yux il 2,94%, è l'unico titolo positivo di questa giornata. Parliamo di Fiat Chrysler perché oggi c'è stata la prima assemblea fuori dall'Italia, l'assemblea in Olanda, perché Fiat Chrysler ha sede legale là. È stato approvato il bilancio del 2014, anno con un utile netto di 632 milioni, in calo rispetto agli 1,951 miliardi dell'anno prima. Andrea Malani, inviato del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Andrea, partiamo dalle cose meno finanziarie, se vogliamo. Ossia il fatto che la giornata, questa giornata di assemblea in realtà si è aperta con i migliori auspici, ossia dati ottimi dal lato delle immatricolazioni, no? Sì, Fiat ha chiuso in Europa un primo trimestre con un aumento delle immatricolazioni superiore a quello del mercato europeo, grazie soprattutto al buon andamento in Italia, un mercato italiano che, come sappiamo, i dati sono noti, ha accelerato nei primi tre mesi dell'anno. Questo ovviamente è stato accolto con soddisfazione da Sergio Marchionne e John Elkann qui ad Amsterdam. Diciamo che pone le basi, ha detto Marchionne, perché il primo trimestre di quest'anno, anche dal punto di vista economico, quindi dei conti, veda un mercato europeo, una Fiat in Europa, una Fiat Chrysler in Europa, con i conti in nero, cosa che è stata vera per la prima volta nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, dopo molti anni di perdite, e che Marchionne spera, con il miglioramento ancora dei mercati atteso nella seconda metà dell'anno, si possa confermare in maniera sempre più significativa. Diciamo che in questo momento, dopo anni in cui non è stato così, l'Europa è uno dei punti positivi del gruppo. Sì, tra l'altro i dati scorporati sottolineati dalla stessa Fiat Chrysler in una nota dicono che per la terza volta consecutiva nel 2015 Fiat Chrysler cresce più del mercato, i modelli 500 e Panda sono le city car più vendute e per Jeep è il 17° mese consecutivo di crescita e grazie a Renegade il brand è cresciuto in tutti i principali mercati europei. Ancora su Fiat Chrysler, brevemente con Andrea Malan, che so che poi deve prendere un aereo per tornare in Italia dopo questa assemblea oltre confine, la prima. Innanzitutto i target di Fiat, che mi sembra che Marchionne abbia confermato, e poi si è parlato di alleanze, insomma sono circolate indiscrezioni di una possibile alleanza con General Motors, che sarebbe, come dire, una sorta di chiusura del cerchio per lo stesso Marchionne, e su questo non è voluto intervenire, no? Se ne è parlato, ricordiamo che se ne era parlato parecchio anche nelle scorse settimane, sia sul nostro giornale che su altri, di GM come uno dei potenziali partner. A domanda diretta oggi Marchionne non ha voluto commentare, l'impressione è che comunque il manager sia ben deciso a cercare di organizzare una qualche forma di accordo o grande alleanza, almeno credo dopo che sarà stata sistemata la questione Ferrari. Ricordiamo che c'è in ballo la quotazione in borsa di Ferrari, lo scorporo, quindi questo richiederà almeno altri 6 mesi. Diciamo che a partire dalla fine di quest'anno, prima dell'anno prossimo, si potrà avere qualche notizia in più. Il punto problematico, quello che prima insiste molto, è che per fare un accordo bisogna essere in due. Per ora sembra che nessuno dei potenziali partner, compresa GM, sia particolarmente intenzionata. Noi possiamo solamente dire che storicamente quello che è successo nel settore auto è che di fatto i grandi accordi si fanno quando uno dei due partner è messo molto male. È successo alla stessa Fiat, che ha comprato di fatto la Chrysler dal fallimento. Quello che spera ora Macron di fare invece è mettersi attorno a un tavolo e cercare di fare un'alleanza prima che questa diventi indispensabile. Vedremo cosa succederà dunque nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Grazie nel frattempo ad Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore ad Amsterdam per la prima assemblea oltre confine di Fiat Chrysler. Ora è il momento della borsa. Non so perché ci vogliate ritornare oggi via sms al 349-238-6666. Fate notare che, perché ha colpito tutti, no, un po' la scena di questa contestatrice che sale sul tavolo di Draghi. Fate notare che, a differenza di quel che abbiamo detto nelle scorse ore, anche nei collegamenti dei giornali radio, quello che ha detto ieri Sebastiano Barisoni, Draghi non ha avuto alcuna plomb nel momento nel quale la contestatrice è salita sul tavolo. Diciamo che ha avuto un buon aplomb per quello che consentiva la situazione. Fate voi, siete in una conferenza stampa, siete il presidente della Banca Centrale Europea, vi sale una sul tavolo lanciando coriandoli. Diciamo che nella situazione ha mantenuto una discreta calma. Parliamo di cose serie, parliamo di borse, va. Giornata negativa oggi, -1,75% per il FTSE MIB, -1,74% sul FTSE All Share, negative anche le altre piazze finanziarie europee, l'America giù dello 0,14% sul Dow Jones e dello 0,16% sullo Standard & Poor's 500. Fabia Carletti, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E qua gioca molto la Grecia, immagino. Sì, esattamente, è stato dato come uno dei motivi per cui oggi sono prevalse le vendite sui listini europei, e comunque alcuni operatori facevano notare che oltre alle preoccupazioni per la Grecia ci sono stati anche realizzi, perché questa seduta negativa viene a inserirsi comunque in un periodo che viene considerato positivo per le borse europee in generale. Sono stati toccati record, massimi, quindi comunque la giornata di oggi come se si fossero presi una pausa gli investitori in attesa di capire quali saranno gli sviluppi per Atene. Come al solito si cerca l'occasione per vendere, in questo caso, e qualsiasi occasione è quella buona. E in tutto ciò si distingue Jux, che guadagna quasi un 3% a fronte gli altri titoli positivi, per dire sono Exor più 0,28%, World Duty Free che guadagna lo 0,10%, tutti gli altri sono negativi, almeno sul listino principale. Come mai Jux guadagna così tanto, Flavia? Jux continua a consolidare questo suo momento positivo, è il miglior titolo a piazza affari dall'inizio dell'anno. Gli investitori lo tengono sotto riflettori, soprattutto negli ultimi tempi, dopo che ha dato queste indicazioni sulla trattativa per l'accordo con Net-a-Porter, la società francese che fa sempre vendite online, che fa parte del colosso svizzero Richemont, e quindi comunque è un titolo che è all'attenzione degli investitori, piace particolarmente, e comunque in qualche modo il fatto che sia il migliore di piazza affari da inizio anno vuol dire che quindi c'è un appeal che fa in modo che anche in una giornata come questa di oggi alla fine è l'unico che guadagna, perché sono molti i titoli che questa mattina sono partiti in positivo, poi alla fine nessuno è riuscito a resistere poi alle vendite generalizzate che hanno interessato sia Milano e Francoforte in particolare, è l'unico che in qualche modo si è salvato, perché comunque c'è questa attenzione particolare vista la trattativa in corso. Mi spieghi una cosa, Flavia? Abbiamo parlato poco fa di Fiat Chrysler. Come mai questa mattina il titolo Fiat Chrysler andava così bene? Quello lo sappiamo perché c'erano i dati sulle immatricolazioni, dei quali abbiamo parlato poco fa, che erano positivi, e poi ha chiuso con un calo del 2,14%. È una delle cose che abbiamo chiesto anche noi e su cui ci siamo interrogati. Una risposta univoca non c'è stata, anche perché appunto tutte le notizie, tutte le indicazioni che ci davano sia gli analisti che gli operatori sul titolo erano positive. Poi a un certo punto proprio c'è stata un'inversione di tendenza, non solo su Fiat Chrysler, ma anche su altri titoli. La stessa CNH, che era partita come la migliore, faceva più 5%, era ai massimi da oltre un anno, poi a un certo punto probabilmente c'è stata questa cosa che si è preferito realizzare, visto che comunque tutti questi titoli venivano da giornate positive, e quindi è stato più un movimento generalizzato. Alla fine ha chiuso con un calo dello 0,85% CNH Industrial, mentre si è tenuta in positivo Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli, ma qua anche per altri motivi, no? Sì, vabbè, se Exor ha i suoi motivi, sta facendo comunque le sue operazioni di mercato, al di là delle sue controllate industriali, sta cercando di diversificare il suo portafoglio, ha annunciato questa operazione che vuole fare su Partner Re, quindi comunque ha in questo momento l'attenzione è più su altro che non su FCA. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, l'ascoltatore che ha scritto: chiesto tizio, ridateci Barisoni. Dico, non vi preoccupate, torna domani, nessun problema. E grazie per aver scritto tizio con la T maiuscola, almeno mi sento un po' meglio. Dovevamo chiudere l'appuntamento di borsa con Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Flavia, eccoci di nuovo. Sì, buonasera allora, di nuovo. Scusa per l'attesa, di nuovo buonasera. Ci sono altri titoli in particolare da segnalare, movimenti particolari al di là, come dire, di tutto il settore bancario che immagino risenta anche l'andamento dello spread dei titoli di Stato italiani? Beh sì, le banche oggi appunto sono andate tutte male. Al di là di quello, secondo gli operatori c'è stato proprio vendite generalizzate sul comparto, perché comunque in attesa delle trimestrali diciamo c'è un aggiustamento dei portafogli e ci si sta spostando verso altri settori che si pensa possano recuperare di più, anche perché le banche sono tra quelle che hanno avuto le performance migliori da inizio anno, anche se solo le popolari hanno fatto più del FTSE MIB. Quindi comunque in attesa delle trimestrali c'è una rotazione dei portafogli secondo alcuni analisti. Però volevo solo aggiungere una cosa su Yux, che prima ho dimenticato, che comunque il titolo è stato anche sotto i riflettori al di là per le notizie che la riguardano, anche perché oggi una concorrente tedesca, Zalando, ha fatto più 16% alla borsa di Francoforte, quindi comunque è stato un po' probabilmente titoli di questo tipo sono stati poi comprati tutti alla luce della performance della società tedesca. Jus Saipem di quasi il 4%, Azimut del 3,8%, Buzzi Unicem del 3,6%, come si diceva, le banche a partire dalle popolari, meno 3,38% per la Popolare Milano, Banco Popolare meno 3,19%, Unicredit meno 3,12%, giù Telecom Italia del 3,07%, Mediolanum del 2,5%, così come Ubibanca, Autogrill del 2,4%, Prismian del 2,3%, Intesa San Paolo del 2,2%, perdono più del 2%, Monte dei Paschi, Salvatore Ferragamo, Fiat Chrysler, e lo abbiamo già detto, e poco meno lo perdono Enel Green Power ed Enel. Mediobanca giù dell'1,8%, Tenaris dell'1,73%, Moncler dell'1,7%, negativa anche la Popolare Emilia Romagna dell'1,65%, TOTS dell'1,3%, così come A2A e Generali, Unipolsai c'è dell'1,2%, poco più dell'1%, Finmeccanica, Luxottica ed Eni, Mediaset di quasi un punto percentuale, CNH come si dice a meno 0,85%, Terna meno 0,8%, Snam giù di mezzo punto e dello 0,4%, Atlantia e Campari dello 0,3%, Ansaldo poco sotto la parità ai 7 Microelectronics e Pirelli, poco sopra World Duty Free, Exor più 0,28% e come si diceva Yux più 2,94%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori Il Sole 24 Ore, e buonasera. Buonasera a tutti. Tra poco verremo al tema che vi abbiamo annunciato all'inizio, ossia torneremo sulla questione delle infrastrutture. Qua c'è un dato interessante, un calcolo fatto da un professore della Bicocca, dell'Università Bicocca di Milano, secondo il quale le infrastrutture negli ultimi 10 anni sono costate a noi, che abbiamo più o meno la metà del territorio dei francesi, il 30% in più. E con che risultati poi, 349-238-6666 per scriverci. Parliamo però adesso dell'attrazione di investimenti nell'area del Mediterraneo. Nel 2013 sono arrivati a 85 miliardi di dollari, un valore più alto anche di quelli destinati alla Cina. Lo dicono i dati presentati da Ernst & Young durante l'Ernst & Young Strategic Growth Forum, organizzato a Roma per discutere di come sbloccare il potenziale di crescita di questa zona, della quale noi facciamo parte, che vale il 15% del PIL mondiale e che nel 2040 avrà 750 milioni di abitanti. Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst & Young in Italia, intervistato da Livia Zancaner. Il Mediterraneo rappresenta circa il 15% del PIL mondiale ed è anche una poderosa import-export, rappresenta circa il 64% del PIL complessivo dell'area, quindi ci sono moltissimi scambi, più di quanti se ne pensi, e soprattutto l'Italia è uno dei paesi, insieme alla Francia, alla Spagna e agli altri coinvolti del sud, comunque che affacciano sul Mediterraneo, è uno dei maggiori paesi che esporta e importa, quindi è uno dei paesi che ha affari commerciali industriali e di investimenti con questi paesi. Per cui l'obiettivo è quello di favorire business tra i paesi, quindi esportazioni e importazioni, ed ancor di più flussi di investimento. Che sì. Opportunità ci possono essere per il nostro paese? Allora, le opportunità sono legate a dei settori che ci sono stati suggeriti dalle imprese dei diversi paesi. E i settori che sono stati individuati come settori dove la cooperazione, la collaborazione può aumentare sono in primis quello delle infrastrutture, delle costruzioni. Il secondo settore che è stato individuato è quello dell'energia, in particolare quello delle rinnovabili. Riconoscendo all'Italia, anche per effetto degli incentivi, comunque un know-how sulla parte delle rinnovabili, in particolare solare, eolico, eccetera, e quindi vedono opportunità di business, sia di aziende italiane che investono in questi paesi, ma sia anche di alcuni paesi che investono nelle nostre aziende, perché ovviamente c'è un know-how e ci sono tecnologie disponibili. Il terzo settore è quello delle telecomunicazioni, e in particolare sul tema delle infrastrutture necessarie. È un problema anche dell'Italia questo, come sappiamo, però è un problema anche e soprattutto di questi paesi. Sono stati poi aggiunti altri settori che magari erano meno, diciamo, interessanti per l'Italia, ma lo erano per gli altri paesi. Uno è quello del life science, in particolare sul settore dell'healthcare, cioè degli ospedali di nuova concezione, ma anche quello del farmaceutico, dove ovviamente le aziende italiane sono molto attive e anche molto interessate. Il forum sarà anche l'occasione, un momento di incontro tra imprese, magari, esatto, di diversi paesi? Questo è lo scopo, quindi è il business lo scopo, è migliorare il business e la cooperazione tra i paesi. Siamo rimasti anche un po' sorpresi dal numero degli iscritti, perché oggi siamo a oltre 400 iscritti e pensiamo che... E in quest'ultima parte della trasmissione cercheremo di farvi arrabbiare un po', ammesso che non lo siate già arrabbiati. Dei crolli che sono avvenuti in questi giorni e in queste settimane abbiamo raccontato ampiamente, adesso vi parleremo anche di un altro crollo. E ci riferiamo naturalmente innanzitutto a quello sulla Palermo-Catania, che di fatto paralizza la Sicilia. Sarà da ricostruire il viadotto, ha raccontato nei giorni scorsi il ministro Delrio. Ci vorranno tra i 18 e i 20 mesi, sostanzialmente 2 anni. Questo per una frana che era là da 10 anni e nessuno ha deciso di tenerne conto. C'è un'altra frana che ha colpito un'altra strada italiana, siamo in Sardegna, in questo caso siamo vicino a Cagliari, una strada che tra l'altro porta ad alcune località turistiche, quindi immaginate che problema possa essere, evidentemente. E la situazione è esattamente la stessa. Oggi ad effetto giorno abbiamo sentito, a proposito di questa nuova 554 che è stata ammodernata recentissimamente con una spesa di 55 milioni di euro, abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici Paolo Maninchedda. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Sono quelle strade progettate all'inizio degli anni 90 con progetti approvati a fine degli anni 90, aggiudicazione dei lavori nel 2001, perizia di variante nel 2004, conclusi nel 2005-2007 e poi già nel 2011 la regione aveva segnalato all'ANAS alcuni cedimenti, aveva chiesto chiarimenti. Successivamente il cedimento attuale è stato ulteriormente ispezionato, l'ANAS ha affidato una verifica della situazione in atto all'Università degli Studi di Cagliari e i dati evidenziano una superficie di scivolamento del versante abbastanza profonda, cioè circa 10 metri dal piano stradale, e l'università certifica che questo movimento corrisponde presumibilmente ad una frana preesistente alla costruzione dell'opera. e che è stata riattivata dalle precipitazioni. È la stessa situazione della Palermo-Catania, una frana preesistente della quale nessuno ha tenuto conto nella fase di costruzione e di progettazione della strada, evidentemente. Ma a sentire l'Università di Cagliari sì, tenga presente che la regione non è stazione appaltante e lo è l'ANAS. Noi abbiamo liquidato all'ANAS per il primo stralcio della 554 bis, proprio quello in cui si è realizzato il crollo, 51 milioni di costi, abbiamo liquidato al progettista 5 milioni di onorari, ritenendo alla luce delle perizie di collaudo fatte dai tecnici ANAS che appunto l'opera fosse stata realizzata ad opera d'arte. La prima operazione che abbiamo in mente è porre rimedio attualmente al disagio ai cittadini, quindi il 22 abbiamo chiesto ad ANAS un incontro per verificare quali sono le soluzioni alternative mentre loro pongono in essere i rimedi necessari. Secondo, abbiamo detto ad ANAS, ma ANAS lo sapeva perfettamente, che la regione Sardegna non intende mettere un solo euro per rimediare al crollo in atto. Il terzo elemento è certamente quello delle responsabilità. Qui intervengono tanti fattori, ecco, non ultima la storia giuridica dell'Italia su come si affidavano le progettazioni un tempo, su come si realizzano i collaudi. Professor Ugo Arrigo, docente di scienze delle finanze all'Università Bicocca di Milano, buonasera. Buonasera, buonasera. Oggi ha pubblicato un pezzo su Strade Online, che è appunto un mezzo di informazione online, per così dire, chiamiamolo così perché non è né un giornale né questo si può dire, è un sito di informazione, si chiama Strade Online, ha pubblicato un pezzo nel quale si mette a fare due conti, molto semplici in realtà, insomma, poi probabilmente si potrebbero approfondire ulteriormente, però i conti su quanto spende la Francia e quanto spendiamo noi per le infrastrutture. La Francia è un paese che storicamente, nel quale storicamente l'intervento pubblico è molto forte, quindi per certi versi paragonabile al nostro, non paragonabile al nostro per dimensioni, eppure che cosa emerge, professore? Ma sì, sostanzialmente noi abbiamo fatto un calcolo sugli ultimi 10 anni di spesa pubblica per infrastrutture di trasporto e viene fuori che in Francia hanno speso a tutto il settore pubblico francese 135 miliardi, quindi 13,5 in media per anno, e noi italiani quasi 180, quindi quasi 18 in media per anno, un più 32-33%. E però il problema è che la Francia è grande quasi il doppio di noi e ha reti nodali e ferroviarie che sono il doppio più di quelle italiane, e quindi il fabbisogno di infrastrutture, che non è di nuove infrastrutture ma di infrastrutture incrementali, di miglioramenti, di rifacimenti eccetera, e dovrebbe essere proporzionale alla dimensione delle reti. E quindi io mi aspettavo, ho stimato un calcolo approssimativo con criteri francesi, grosso modo una spesa pubblica in Italia pari alla metà di quella che noi abbiamo fatto. Quindi con regole, con modalità di spesa francese avremmo speso più o meno la metà. Avremmo dovuto spendere la metà. Il problema è, come accennava lei, professore, con che risultati poi spendiamo questo 30% in sì, più? Perché no? Poi ovviamente questa differenza è una differenza che dovrebbe essere a parità di qualità, ma basta aprire qualsiasi telegiornale o notiziario e ci accorgiamo che evidentemente la qualità non è la stessa. Quindi vuol dire che ci sono dei problemi molto, molto di fondo che non possono essere risolti semplicemente cambiando qualche regola giuridica. Noi abbiamo speso negli anni sui lavori pubblici non certo per fare in modo che il cittadino circoli meglio sulle strade. La sua impressione, professore, è che dove si annidano esattamente questi problemi? Insomma, noi di opinioni ne stiamo raccogliendo molte, però insomma, vorrei sentire anche la sua. Ma diciamo così, intanto sprechi analoghi non ci sono su altre reti infrastrutturali che sono gestite direttamente da chi fornisce servizi o energia o acqua eccetera, e le reti idriche e soprattutto quelle di telecomunicazione, energetica, del gas, le imprese che le utilizzano per erogare i servizi le costruiscono quando servono, immagino che le facciano anche con costi accettabili, con costi efficienti. Il problema è che per quanto riguarda le strade le usa il cittadino in maniera indipendente, quindi non c'è un gestore pubblico che deve far vendere dei servizi usandole, E quindi a questo punto, vabbè, insomma, il bello della spesa è appunto la loro costruzione, non il loro esercizio. È un caso interessante quello svedese, in cui c'è un unico gestore nazionale che gestisce tutta la rete stradale, tutta la rete ferroviaria, e decide lui gli investimenti, non li decidono i politici, non li decide il governo, ma sulla base delle esigenze di comunicazione, di trasporto delle merci e dei passeggeri. Ed è un gestore pubblico, professore? Sì, assolutamente, non è né una SPA, è una pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione, quindi in senso rigido, fa parte dello Stato svedese. Infatti il prossimo confronto che farò è andare a vedere quanto spendono loro rispetto ai francesi, rispetto agli italiani, e quindi vediamo. Però mi aspetto cose non differenti da quelle scoperte tra ieri e oggi. Allora, eventualmente, professore, la teniamo per altre analisi. Nel frattempo ci ricordano gli ascoltatori, ma questo, professore, lo sappiamo benissimo, c'è anche un'orografia differente tra Francia e Italia. Alcuni dicono la Francia è piatta, dire la Francia è piatta è un po' troppo, insomma, un po' troppo forte. Però diciamo ci sono anche evidentemente delle differenze orografiche. Questo però nella stima ne ho tenuto conto, aggiungendo un 30% di extra costo italiano, che secondo me può essere giustificato dall'orografia. Un quanto ha detto? Mi scusi. Un 30%. Io ho immaginato che sia ragionevole che in Italia le opere stradali e ferroviarie costino su tutto il territorio un 30% in più, dovuto a quella parte di territorio che è collinare e montuoso, e che in Francia invece è più facile e più facilmente costruibile. Quindi già nella stima c'è incorporata un tentativo di tener conto di questo effetto, che ovviamente non è oggettivo, è frutto di una stima qualitativa. La ringrazio, grazie al professor Ugo Arrigo, che è docente di scienze delle finanze all'Università Bicocca di Milano. Poi naturalmente in questa stima potete metterci tutti i caveat che volete, avete parlato appunto dell'orografia della Francia rispetto all'Italia, per carità insomma, però è una stima indicativa, questo 30% in più che spendiamo rispetto ad un paese che è il doppio del nostro per dimensioni, che secondo me ci dà anche un minimo di misura, per così dire, anche rispetto, e quello è il vero tema, alla qualità. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.